dai. No, oggi niente Mardi Gras, no. Non c'abbiamo tempo oggi, basta. Via, via, andate via. Via, via, via, via. Oh, sì, però, almeno dirlo. Quando abbiamo parlato di Halloween ormai due settimane fa era Halloween. Ah, sì. Ecco, non abbiamo accennato al rito del dolcetto e scherzetto. Trick or treat. Ecco, ci torniamo su perché a Londra è successo che due bambini sono tornati dai genitori carichi di dolcetti e tra i dolcetti c'erano due bustine di cocaina. Sì, sì, sì, proprio così. Ma come? Ah, i genitori quindi hanno detto wow. No, no, i genitori hanno chiamato la polizia e alla fine sono stati arrestati un ragazzo, una ragazza di 20 anni che per sbaglio avevano dato la coca ai bambini che avevano bussato alla loro porta, no? Quindi genitori, se per caso non avete controllato bene i dolcetti ricevuti dai vostri figli a Halloween, sappiate che potrebbe anche esservi sfuggita qualche bustina di cocaina. Cari genitori, lo sappiamo. Sono certe cose che a saperle prima. Però provate a cercare nei cassetti della stanza i vostri bambini, magari li ritrovate. Trick or treat, trick or treat, trick or treat. Cocaine. Chiedo asilo. Chi è adesso? Chi è? Guarda. Non lo so io chi è. Pronto? Pruento? Pruento. Pruento. Ma non si dice pruento in spagnolo. Non esiste pruento. E da niente. Non so come si dirà hola. Hola. Come hola? Hola. Manolito, sei tu l'ispanofono, mica io. Ispanofono? No, comprendo io. Ispanofono, parli spagnolo, no? Ed è bien segnato, e quindi non capisco, se parli spagnolo, non capisco come mai tu dica pruento quando chiami al telefono. Ed è la lingua dell'Ecuador donde io vengo. No, guarda che ho controllato, in Ecuador o Ecuador si parla castigliano, non quella specie di gramlo che parli tu. Gramlo, ma io non capisco. Senti, Manolito, ma non si può parlare di niente con te perché non capisci niente, capisci? Sei come Tito. Il mio cane, capisci cane? No, signor, non comprendo. E il perro, Tito, capisce più di te. Il perro Tito sta bravo adesso. Il perro sta bene, sì, insomma. E puedo fare il perro sitter para un pochito de sterlinas cada hora. Al tempo che mi occupo del signor Assange qui in l'ambasciata di Londra, un perro para la compagnia del signor Assange estaría muy bien. Allora, il cane... Etaria muy bien. Etaria muy bien, sì. Etaria. Sembra veneto, io non so. Vabbè, come sta Assange? Sempre annoiato sul divano? Sempre rompicojones. E tra un debito che nos tenemos. Debito. Cioè, Assange è un debito? Sì, signor, come lo puedo definire? Un debito, un danno, una cambial. Una? Una cambial, non conosce cambial. No, la cambial non so cos'è. Fortunato, io tengo dei sinners, dei cambiales a pagare. Le cambiali, cambiale. Certo, la cambiale. Assange è una cambiale, un debito è una cambiale. E da niente, signore, e da niente. Lo so. Però dai, scusa, state facendo comunque una grande impresa di democrazia, Proteggete Julian Assange dalla CIA, cioè, mica, hai capito? E da niente, però prima o poi... No, scusa, prima o poi... Prima o poi, si pronuncia prima o poi. Ma che lingua? Ma Manolito! Io spero che la CIA faccia un intervento tipo cabezas de collo. Le cabezas de collo. Sì, le teste di cuoio, mentre nel tuo caso la testa è un'altra cosa. Quindi tu speri nelle teste di cuoio. E da bien, la CIA, e da bien. Vabbè. Guarda che se ti sente l'ambasciatrice ti fa andare davanti alla corte marziale, Manolito. Corte marziale, sempre mejor che stare qui col signor Assange. Ah, che disperazione, che tristezza. No, che adesso... depressione. No, dai. Che disperazione, che anguassa. Che depressione. No. Ma adesso anche l'anguassa. Ah, che disperazione, che stanchezza, che depressione. Chiedo asilo. Però senti, il bambino Tonino è un po' di tempo che non mi piace mica tanto. Cos'è che ha? Ma scusa, sta sempre lì in disparte all'asilo, non sì, è più sì. Spavaldo come una volta. Ma certo, che... ma che il bambino Tonino ha avuto un problema perché la bambina Gabanelli gli ha fatto un bel pacco. Ma sì, ma ho capito, ma lui è una forza della natura, ma è possibile che non riesca a reagire? Lo vedi che è tutta abbacchiata, tutto pallido. Io vorrei vedere se tu ti fossi sempre fatto i cazzi degli altri bambini per controllare se si comportavano bene o male, manco fossi un poliziotto, e poi scoprono che sei tu a comportarti male, e beh, è uno smacco, eh. È come Robespierre, che a forza di ghigliottinare tutti si è ghigliottinato da solo, e non era rimasto nessun altro, ha dovuto fare lui. Ma fino a pochi giorni fa era proprio lui che cercava di dar coraggio a Bersani per scegliere tra Vendola e Casini, vabbè, no? Invece adesso è lui che avrebbe bisogno di un po' di coraggio, povero. Dai, coraggio, bambino Tonino, dai, diglielo anche tu, coraggio. Coraggio, dai. Torna a essere quello di prima. Giusto. Noi ti aspettiamo. Siamo qui per te. Alla fine cosa c'entra se hai 45 case e tutti i tuoi parenti sono a libro paga dell'Italia dei Valori? Ma sì, dai. Tu sei sempre tu, così, no? Giusto. Sei sempre quello che ha fatto venire la bavetta Forlani. Ti ricordi la bavetta? Eh sì, certo. Manco quella di Pannella. Adesso, dai, non è che la bavetta viene anche a te. No. Quello no, scusami. La bavetta no. Adesso non è che la bavetta viene anche a te, Tonino. Dai. Il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui per muore di fame. Voglio former prime minister. Ecco, questo che ride non è un cretino qualsiasi. Ah no? No. Sembrava. No, è uno importante. Ah, un cretino importante? Ma no, è tutt'altro che un cretino, è il Dalai Lama, dai. Come Dalai? Cos'è? Sì. Perché ride? Lui ride sempre, sai com'è, no? Ma anche quando è triste. Ma il Dalai Lama non è mai triste. Ma dai, come fa? Come non è mai triste? Ma scusa, cioè... ma è il Dalai Lama, cioè avrà passato l'80% della sua vita a meditare. Vuoi che sia triste come noi gente comune? Comunque ride, e in questo specifico caso, ride del nostro precedente presidente del Consiglio. Che ti devo dire? Così. Come? Il nostro precedente... Cioè vuol dire che il Dalai Lama conosce Berlusconi, certo. E ride di lui? Gli hanno fatto una domanda proprio su Berlusconi e lui è scoppiato a ridere, come se gli avessero chiesto di Paperon de Paperoni, capito? Ma ormai l'ha scaricato tutti, il povero Silvio. Così, ma sì. Dai... Ma anche il Dalai Lama lo seppellisce con una risata, no? Si diceva così nel 68. Sì. L'ha seppellito con una risata. E gli rimane solo Putin, guarda. Ottima compagnia, direi. Vabbè, questione di gasdotti lì, no? Ah, tipo quella canzone di Mina e Cocciante. Questione di gasdotti. Oh, è successo un casino. Cosa è successo? Ma come? Non hai letto no. Sul giornale? C'è la cascina Brera qui a Milano. Sai le cascine dove vanno i bambini in gita? Che c'è l'animale, meno male che ci sono queste cose, sono utili per far vedere gli animali, la campagna, gli ortaggi, tutto quanto. Gli ortaggi, ho capito, però è successo un casino. Cosa è successo? È morta una mucca. Vabbè, morta una... come non morta una mucca? È morta una mucca perché? Non mica di morte naturale, Drago. L'hanno uccisa dei bambini. Ma come i bambini? Sì. Oh, mamma mia, come hanno fatto? Ma no, ma... violenti? No, anzi, tutti un po' coccolosi. E quindi? Gli hanno dato un Wunderwaffer e la mucca è morta. È morto. Come è morta? È morta. Per un Wunderwaffer. Sì, sarà perché è ruminante, quattro stomaci, insomma, non posso mangiare quelle robe lì. Comunque, insomma, io non sono un ruminante. Ma tanto per stare sul sicuro, io Wunderwaffer, cioè anche se lo sponsor. Ma scusa, è morta la mucca. State ascoltando un programma offerto da Wunderwaffer. Mancano 38 giorni alla fine del mondo.